Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Oltre 150 mm di pioggia caduti ieri sul Friuli occidentale, situazione più critica a San Vito al Tagliamento, chiusa la strada che porta a Clausetto. A Paularo, corsa contro il tempo per riaprire la strada vecchia da cui passa il Giro d'Italia, tappa prevista tra una settimana. L'arteria è stata chiusa a causa di una frana data dalle abbondanti piogge di ieri. Giornata da record ieri per il porto di Trieste, che ha registrato complessivamente oltre 15.000 passeggeri in transito nell'arco di poco più di 12 ore di sosta di due navi da crociera. Tetraplegica di 49 anni affetta da sclerosi multipla diffida a Sugi, che aveva opposto un rifiuto alla sua richiesta di accedere al suicidio medicalmente assistito, la denuncia dell'associazione Coscioni. Un concerto di altissimo livello chiuso ieri sera la stagione del Nuovo Teatro Giovanni da Udine. Protagonista Riccardo Chailly, che ha diretto i Filarmonici della Scala. Moderna e anticonformista, una delle più grandi attrici teatrali, Eleonora Duse, al centro della rassegna pordenonese La Scena delle Donne, questa sera all'ex convento San Francesco. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Francesca Terranova e di Elisabetta Zaccolo, che vi parla in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio, che apriamo ancora con i danni dell'ondata di maltempo abbattutasi ieri non solo sulla zona di Latisana ma anche nel Pordenonese. San Vito al Tagliamento, il comune più colpito della destra Tagliamento. Strade come fiumi, abitazioni scantinati, allagati. Sul Friuli occidentale sono caduti da 100 a 150 mm di pioggia, con punte di oltre 200 sulle prealpi carniche. La situazione più critica a San Vito al Tagliamento, una trentina le abitazioni coinvolte. Il sindaco Alberto Bernava. Una situazione ieri straordinaria, che non ha precedenti, almeno negli ultimi decenni. 150 mm in poche ore. Il nostro sistema ha retto finché poteva, e poi naturalmente i corsi d'acqua, i fossi, le strade si sono allagate, e anche purtroppo delle abitazioni. Siamo intervenuti tempestivamente con la nostra protezione civile, con i vigili del fuoco, con i nostri operai, con i vigili urbani e soprattutto con la tanta collaborazione di tanti cittadini che ci hanno aiutato a lavorare fino a tarda notte. Chiederemo, come Comune di San Vito, alla Regione di intervenire per l'indennizzo dei danni. Al momento l'emergenza è rientrata in mattinata al sopralluogo dell'assessore Riccardi. Un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco di Pordenone dal pomeriggio di ieri a stamattina, che hanno richiesto un raddoppio dei turni del personale in servizio. Nella notte anche il soccorso di due uomini rimasti bloccati in un isolotto tra Meduna e Cellina, attivato anche il reparto volo dell'esercito Rigel di Casarsa. Rimangono chiusi i guadi di Rauscedo e Murlis e quelli secondari a Cordenons. Ancora chiusa la strada del Tul verso Clausetto. Il Livenza è sopra il livello di primo presidio, stabile. Le portate esitate delle dighe di Ravedis e Ponteracli hanno superato i 300 metri cubi al secondo, in diminuzione. Il valore dell'idrometro a Ponte Meduna è in aumento. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci in Carnia, a Paularo, dove si sta lavorando per riaprire la strada vecchia da cui passa il Giro d'Italia, tappa prevista tra una settimana. L'arteria è stata chiusa per via di una frana causata dalle abbondanti piogge di ieri. Sarà letteralmente una corsa contro il tempo la messa in sicurezza dell'SP40 a causa di frane in diversi punti. La strada vecchia che porta a Paularo è stata chiusa dall'EDR, ente di decentramento regionale, almeno fino a mercoledì. La tappa Mortagliano-Sappada, che transiterà da qui, è in programma per venerdì. Non solo piccole colate detritiche, a causa delle precipitazioni nella notte si è staccato da un versante della montagna un masso di un metro cubo, precipitando sul manto stradale, bucandolo in tre diversi punti. Questa mattina, sopralluogo dei geologi, ditte già al lavoro per installare barriere paramassi sul versante. Il fronte franoso è di circa 100 metri in lunghezza e 100 metri sopra la carreggiata stradale. Si lavorerà senza sosta, meteo permettendo. Lunedì, in un vertice in prefettura, e il giorno successivo si farà il punto della situazione. Poche settimane fa un cedimento interruppe temporaneamente la strada che collega Treppo Carnico a Ligosullo, anch'essa interessata dalla Corsa Rosa. Con la pioggia delle ultime ore si è riattivato anche il movimento franoso a monte dell'abitato di Cazzaso. Il sindaco di Tolmezzo chiuderà la strada che porta a Cazzaso Nuova in via precauzionale per un paio di giorni. Il sistema monitoraggio GPS segnala scostamenti e accelerazioni della massa franosa. Due delle 13 centraline hanno superato il livello di allerta minimo di un centimetro al giorno. ma in passato si è visto di peggio, indica il comune. A novembre 2023 si erano accese tutte e 13 le centraline. In paese, 74 abitanti, incluso Cazzaso Nuova, fanno spallucce. Sono abituati a questi allarmi per una frana venuta giù dal monte di Verdalce a metà del 1800. Il disagio, ci spiegano i residenti, è soprattutto per gli anziani, che non riescono più a prendere la corriera fino a Tolmezzo, corriera che copre tutti gli orari del giorno, e disagio anche per i bambini, che per prendere lo scuolabus devono percorrere un lungo tratto a piedi. Arta Terme, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quella di ieri è stata una giornata record per il porto di Trieste, che ha registrato complessivamente più di 15.000 passeggeri in transito nell'arco di poco più di 12 ore di sosta di due navi passeggeri, entrambe della Norwegian Cruise Line con bandiera Bahamas, che hanno eletto il porto giuliano come home port. A concorrere al raggiungimento di questo traguardo sono state la nave Norwegian Escape, ormeggiata presso il molo Bersaglieri, con una lunghezza di 326 metri e larga 48, a bordo della quale sono sbarcati 4.479 passeggeri e imbarcati 4.617, con destinazione Spalato in Croazia, e poi la nave Norwegian Viva, ormeggiata al molo settimo del Porto Franco Nuovo, con una lunghezza di 294 metri e larga 44, a bordo della quale sono invece prima sbarcati 3.080 passeggeri e poi imbarcati 3.246 con destinazione Ravenna. Oltre ai passeggeri va segnalato anche il numero di bus movimentati. Nel primo caso, quello della Norwegian Escape, sono stati 44 i bus dei passeggeri sbarcati e 30 di quelli imbarcati. Nel secondo caso, quello della Norwegian Viva, sono stati invece 35 i bus dei passeggeri sbarcati e 25 di quelli imbarcati. Da aggiungere infine a questi numeri i movimenti fatti dalle 24 navette che hanno trasportato i passeggeri tra la stazione marittima e quella ferroviaria. Uno sguardo al meteo: il cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da nuvoloso coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste, Gorizia, Udine 18 gradi, a Pordenone 16, a Tolmezzo 14, a Tarvisio 13, a Forni di Sopra 11 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 8, a Sappada 9 gradi, sul Monte Zoncolan 4, sul Monte Lussari 3, a Grado 19, a Lignano 20 gradi. Ma sentiamo come si stanno evolvendo le condizioni meteorologiche e le previsioni per il weekend da Marcellino Salvador, previsore dell'ARPA regionale. Giornata di oggi caratterizzata da flusso da sud-ovest, il che vuol dire tempo buono per quanto riguarda bassa pianura e costa, dove prevarrà il sole, e invece maggiore prevalenza di nubi per quanto riguarda la zona montana e pedemontana, con la possibilità di qualche rovescio, di qualche temporale nel pomeriggio, che potrebbe interessare anche qualche zona della media pianura, ma non siamo certo ai livelli di ciò che è successo ieri. Dopodiché una notte tranquilla e stabilità per quanto riguarda la giornata di domani, che vedrà una situazione di tempo buono, cielo sereno poco nuvoloso, qualche nuvolo nel pomeriggio in montagna, ma nulla di più, temperature massime intorno ai 22-23 gradi. Domenica cielo poco nuvoloso variabile, forse c'è qualche nuvola in più rispetto a sabato e la possibilità di qualche isolato rovescio, ma nel complesso direi che il weekend è buono. Piogge ritorneranno, direi, per la prossima settimana, probabilmente più da martedì, dove saranno ancora piuttosto consistenti, anche se non del livello di quelle che abbiamo avuto ieri. Ha lanciato anche un video appello ai parlamentari Martina Oppelli, di 49 anni, dall'età di 28, affetta da sclerosi multipla tetraplegica, che ha diffidato l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina dopo il rifiuto ad accedere al suicidio medicalmente assistito, come annunciato dall'associazione Luca Coscioni. La donna ha detto che il suo non è un suicidio ma eutanasia e presto potrebbe essere costretta ad andare in Svizzera per accedere alla morte volontaria assistita. Nell'agosto del 2023 la donna aveva inviato una richiesta di verifica delle condizioni per accedere alla morte volontaria assistita da Sugi, ma dopo essere stata visitata dalla commissione medica multidisciplinare a ottobre del 2023 non aveva ricevuto risposta. Dopo una serie di solleciti, Asugi le ha comunicato di non poter accogliere la richiesta perché mancherebbe il requisito del trattamento di sostegno vitale. Lo scorso mese di febbraio Martina Oppelli, assistita dal collegio legale della Coscioni, ha diffidato l'azienda sanitaria perché procedesse alla immediata valutazione delle sue condizioni di salute. L'azienda sanitaria ha però negato questa possibilità, sostenendo di non avere nessun obbligo di rivedere un proprio precedente provvedimento e che questa richiesta di revisione contrasta con il principio di economicità nella pubblica amministrazione, prosegue l'associazione. Quindi Martina Oppelli ha depositato tramite i propri legali un ricorso d'urgenza per chiedere che la SUGI venga condannata alla rivalutazione del requisito del trattamento di sostegno vitale e alla individuazione del farmaco letale, delle sue quantità e della modalità di autosomministrazione, così da poter accedere al suicidio medicalmente assistito in Italia. Martina Oppelli è un'architetta, professione che continua a esercitare grazie ai comandi vocali per potersi permettere l'assistenza continua di cui necessita. La sua diagnosi è sclerosi multipla secondaria progressiva evoluta con gravissima limitazione motoria, con dolori e spasmi diffusi poco controllati dalla terapia che la rendono totalmente dipendente da terzi per la conduzione di ogni attività. È in corso all'Università di Trieste il convegno sui primi 20 anni di amministrazione di sostegno, aperto agli operatori del settore e alle famiglie con adulti in condizioni di fragilità. Intervengono giudici, professori, notai, avvocati, medici, operatori dei servizi sociali ed esponenti del volontariato. Più di 20 anni fa chi non era in grado di provvedere a se stesso poteva essere interdetto e affidato a un tutore. Da 20 anni a questa parte esiste anche la figura dell'amministratore di sostegno che non toglie del tutto alla persona protetta la capacità di agire. Gloria Carlesso, giudice tutelare. Consente di offrire una protezione modulata per i singoli casi e le singole anche patologie e fragilità, tenendo conto delle esigenze e degli obiettivi di protezione. Quindi per me, che sono un giudice tutelare, il bilancio è positivo. In questo momento in regione sono attivi 11.000 amministratori di sostegno. Nel 90% dei casi sono figli o parenti dell'interessato, negli altri avvocati. A Trieste, in rapporto alla popolazione, il ricorso a questa figura, che ha un certo margine di discrezionalità di giudici e assistenti sociali, è inferiore alle altre province. Si è lavorato molto nella formazione per evitare che ci fosse uno tsunami di domande e che non fosse automatico per ogni condizione di fragilità e ogni bisogno il ricorso all'amministrazione di sostegno, perché altrimenti in una popolazione come Trieste di grandi anziani, di tanti disabili, di tanti pazienti psichiatrici, noi saremmo stati sommersi. Se il bilancio della riforma è positivo, i problemi non mancano, come in tutte le riforme a costo zero, da qui la richiesta di maggiori risorse. Più giudici tutelari, più funzionari di cancelleria, significa più formazione sul territorio, più sensibilizzazione, più consapevolezza delle responsabilità degli operatori. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia. Festeggia i 40 anni l'associazione Arte e Libro, realtà udinese che si occupa della formazione e dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Alla celebrazione ha partecipato anche la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, con un annuncio particolare. A curare i doni istituzionali del primo G7 per la disabilità che si terrà in Umbria a metà ottobre sarà l'associazione Arte e Libro, realtà udinese, che da 40 anni esatti realizza progetti di inserimento lavorativo per persone con disabilità, anche gravi. Con la sua tradizionale attività di legatoria curerà cartelle e portadocumenti, ma anche un particolare quaderno che sarà parte dei doni istituzionali, composto da fogli di diversi colori e forme che simboleggia la diversità. È l'annuncio fatto nell'evento di celebrazione del quarantennale avvenuto all'Eden Park di Udine. L'attività, spiega la presidente Katia Mignogna, negli anni è cresciuta e ha saputo creare legami con le aziende del territorio, creando opportunità di lavoro e di collaborazione. Ora Arte e Libro si occupa, oltre che di legatoria, anche di inscatolamento, di cosmetica e di cucina, impiegando persone con disabilità che hanno così un lavoro, uno stipendio e una prospettiva per il futuro. Alla celebrazione ha partecipato anche la ministra per la disabilità, Alessandra Locatelli. Per lei quella di Arte e Libro è una realtà virtuosa che realizza prodotti di qualità, ma tutto il territorio della regione sottolinea presenta esempi di attività per l'inclusione. In mattinata il ministro ha visitato la Legotecnica di Pasian di Prato, nel pomeriggio farà tappa a Casarsa della Delizia per l'inaugurazione del laboratorio dell'associazione La Luna. Il tema della disabilità, ricorda, riguarda tutti. Proprio nei giorni scorsi è stato approvato il decreto sulla prospettiva di vita, parte fondamentale della riforma dei servizi sulla disabilità, che mira a ribaltare la prospettiva nella presa in carico della persona, elaborando un progetto intorno al disabile, alle sue necessità e ai suoi desideri. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla cronaca. La polizia di Trieste ha arrestato lo scorso 9 maggio un cittadino marocchino di 23 anni senza fissa dimora per il reato di traffico di sostanze stupefacenti e violazione della normativa sugli stranieri. Agenti delle volanti della questura di Trieste, transitando in via Val di Rivo, hanno notato tre ragazzi che alla vista dell'auto di servizio hanno tentato di nascondersi tra le impalcature edili. Gli agenti, insospettiti, li hanno fermati e identificati. Durante queste fasi uno di loro ha lasciato cadere dalla tasca dei pantaloni un pacchetto di sigarette che poi ha spinto con un calcio sotto la volante stessa. I poliziotti hanno notato il gesto, recuperato il pacchetto, vi hanno trovato all'interno e confezionata in 19 dosi pronte per lo spaccio poco più di 10 grammi di cocaina che sono stati sequestrati. Il giovane è stato perquisito e fotosegnalato assieme agli altri due, anch'essi cittadini marocchini senza fissa dimora in città e quindi arrestato in flagranza di reato. I carabinieri di Tolmezzo hanno individuato due cittadini croati senza fissa dimora. Le indagini hanno puntato sui due dopo il furto in un'abitazione di Venzone in cui i ladri erano entrati dopo aver atteso che i proprietari uscissero. Qui hanno rubato gioielli per 2.500 euro. Da subito i carabinieri del NORM di Tolmezzo avevano saputo di un analogo episodio avvenuto in quella stessa mattinata a Tarvisio in un'altra casa unifamiliare. Le informazioni ottenute dal vicinato e gli elementi raccolti avevano fatto convergere gli indizi su un'utilitaria a bordo della quale viaggiavano due persone che girovagava nei pressi delle abitazioni saccheggiate poco prima. Gli indizi raccolti hanno così condotto i due cittadini croati, già noti alle forze dell'ordine per precedenti azioni messe a segno in tutto il nord del paese. Le elezioni europee del prossimo giugno, questa mattina a Trieste, la presentazione della lista Stati Uniti d'Europa, che pone al centro del suo programma una politica liberal democratica ed europeista. Stati Uniti d'Europa è la lista di scopo promossa da Emma Bonino e che vede alleati più Europa, Italia Viva, Lib Dem Europei, Radicali Italiani, PSI e l'Italia c'è per le europee. E nel nord-est a capolista lo scozzese Graham Watson, già parlamentare europeo che si definisce rifugiato dalla Brexit e si candida in quanto cittadino italiano. La proposta di Stati Uniti d'Europa è quella di superare il sistema confederale dove un Orban qualunque può tenere sotto scacco 27 paesi per approdare a un'Europa federale che decide con una maggioranza qualificata anche attraverso il Parlamento. La deputata friulana di Azione, Isabella De Monte. La regione Friuli Venezia Giulia ha come approdo naturale gli Stati Uniti d'Europa. Abbiamo conosciuto i confini, le difficoltà anche dell'economia di confine che è venuta meno. Noi pensiamo che gli Stati Uniti d'Europa possono creare molte opportunità. In particolare il mercato unico va perfezionato eliminando ancora le tante differenze che favoriscono le delocalizzazioni, ma per un'Europa più forte è necessaria anche una difesa unica. Perché 27 eserciti per 27 paesi? Non è che dobbiamo spendere di più, ma dobbiamo spendere in modo più efficace per una vera politica di difesa europea. Dobbiamo assolutamente fermare i russi, perché se no non c'è nessun paese europeo che è protetto dall'espansionismo di Putin. Idee sostenute anche dagli altri due candidati presenti, veneti Aurora Pezzuto e Davide Bendinelli. Impegnata in un altro confronto, la candidata proveniente dal Friuli Venezia Giulia, Gabriella Chiellino. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora l'atteso concerto dell'Orchestra Filarmonica della Scala di Milano, diretta da Riccardo Scegli, ieri sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, evento che ha chiuso la stagione sinfonica sulle note del concerto per pianoforte orchestra numero 1 di Tchaikovsky e della terza sinfonia di Prokofiev. Un concerto che è come un'opera teatrale senza personaggi, pieno di colpi di scena e di emozione. Riccardo Scegli guida i filarmonici della Scala in un programma a due facce. La prima è quella celeberrima del concerto opera 23 di Tchaikovsky, ricco di grandi melodie e passaggi pianistici ad alto tasso di difficoltà, con l'orchestra che asseconda lo sfolgorante talento e la maturità interpretativa del 23enne pianista russo Aleksandr Malofeyev. Noi dobbiamo servire la sua lettura con la sua originalità. Aleksandr è un musicista talmente chiaro e con una tecnica prodigiosa, e la musicalità che sentite è qualcosa di veramente contagioso. Il racconto cambia tono nella seconda parte e diventa un oscuro dramma a sfondo satanico con la terza sinfonia di Prokofiev, pagina che nasce dalle ceneri di un'opera mai rappresentata durante la vita del compositore, L'Angelo di Fuoco. E qui i filarmonici milanesi scatenano un torrente sonoro che lascia senza fiato, facendo insieme valere, spiega Chailly, tutto il peso della loro esperienza teatrale. La Filarmonica della Scala da 40 anni è stata formata e fondata da Claudio Abbado e vive una vita parallela e indipendente alla stagione lirica della Scala. Nasce tutto dal teatro, è un frutto di trasferimento dalla musica di teatro al palcoscenico sinfonico. Quindi ha bisogno, più che mai Prokofiev, di un'orchestra che sia capace di raccontare una storia. E loro vivono accompagnando storie cantate tutti i giorni dell'anno, quindi è proprio una sovrapposizione di stili che fa anche della Filarmonica della Scala una delle orchestre più adeguate a questo tipo di repertorio. Udine, Andrea Verdanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Prosegue la rassegna La scena delle donne a Pordenone, tutta incentrata sull'attrice Leonora Duse nel centenario della sua morte. Questa sera all'ex convento San Francesco alle 20:45 va in scena lo spettacolo Drama Queen, le donne di Eleonora Duse, di Claudia Bellemo Bra e con Catiuscia Bonato. La Duse ha rotto lo schema dei suoi tempi, quando l'unico obiettivo di vita per una donna doveva essere sposarsi, fare figli e badare alla casa. Ci dice di più l'autrice Claudia Bellemo Bra. L'impatto col pubblico è un argomento molto importante che anche nello spettacolo trattiamo, anche molto attuale. Lei era di sicuro una fuori dagli schemi rispetto all'epoca, sia per lo stile di vita lavorativo, quello di trovarsi spesso fuori a viaggiare, non era così consueto per le donne dei primi del Novecento, anzi, sia anche per il fatto che comunque era una donna molto indipendente, conosciuta, separata dal marito, con i figli che lascia per dover andare in giro a fare delle tournée. Tanti amori fatti di cronaca che sono comunque sulla bocca di tutti, molto discussa, per cui sicuramente lei diventa un simbolo di indipendenza più avanti negli anni, poi anche nel periodo in cui abbandona le scene. Lei si avvicina a tutta una serie di movimenti femministi, crea e fonda nel 1914 a Roma una biblioteca per le attrici, cioè pian piano sempre di più lei si sente avere anche un ruolo non solo per se stessa ma per tutte. Dall'altro però in certi aspetti veniva anche molto criticata proprio per questo suo stile di vita, come un po' dice lei, di fare quello che voleva lei. Rosso di sera è la passeggiata per famiglia al tramonto in Porto Vecchio che parte questa sera alle 19 su un percorso illuminato lungo 3 chilometri con animazione per i bambini. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Burlo Garofolo. Per via della corsa oggi le mostre e il Museo del Mare del magazzino 26 anticipano la chiusura alle 17. Concerto in memoria della pianista goriziana Elena Lipitzer, scomparsa 7 anni fa. La pianista Ilaria Sinicropi suonerà Mozart, Schumann, Chopin e Beethoven alle 20:30 al Teatro Bratusch di Gorizia. Le allerte meteo non fermano l'allenamento dei giovani canottieri di Trieste, ragazzi di 15-17 anni che ogni giorno prima di andare a scuola si svegliano alle 4 del mattino e vanno in barca. Arrivano alle prime luci dell'alba gli atleti del circolo canottieri Saturnia per il consueto allenamento mattutino dal lunedì al venerdì. Chi accompagnato dai genitori, chi a bordo del proprio scooter, chi a piedi, l'importante è essere nello spogliatoio prima delle 5:25. Il sonno non è un problema, ormai ci si fa l'abitudine. Meglio risvegliare anche i muscoli del corpo. 2 ore di attività in mare assorbono molte energie. La mattina sì, è difficile svegliarsi, però quando arrivo qua penso solo a fare del mio meglio e tirare. Poi dopo inizia la giornata scolastica e da lì dopo inizia un'altra fatica che è la scuola. Anche per un'atleta veterana di questo sport come Sofia Secoli, pluricampionessa italiana nel due senza, I ricordi di quelle levatacce sono vissuti come un passaggio obbligato per raggiungere la maglia azzurra. Lo è stato molto negli anni in cui andavo a scuola, andavo al liceo. L'ho fatto per parecchio tempo perché, diciamo, si inizia in terza, quarta superiore, si fa fino alla quinta. I risultati del lavoro fatto anche alle 5:30 del mattino si vedono. Il gioco vale la candela. Allenamenti che si svolgono sotto la guida di uno staff di allenatori con a capo il direttore tecnico del circolo canottieri Saturnia, Spartaco Barbo. Per Trieste, per il Saturnia è una tradizione perché siamo obbligati, visto il mare, il canottaggio ha bisogno di acqua piatta, di acqua ferma, è l'unico momento della giornata dove queste caratteristiche ci sono, è alla mattina presto o alla sera molto tardi. È finito l'allenamento, ora si va a scuola? Sì, adesso 8:10 inizia la scuola. Bocca al lupo. Grazie mille, arrivederci. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. È l'ultima stagione da allenatore della Pallanuoto Trieste di A1 per Daniele Bettini. La società non ha rinnovato l'accordo con il tecnico ligure, una decisione arrivata al culmine di un anno complicato e inficiato dalla mancata qualificazione all'Euro Cup. Da 5 anni Daniele Bettini allena la prima squadra maschile che, sotto la sua guida, ha conquistato i migliori risultati di sempre. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Daniela Sossi per la parte tecnica, in regia Mauro Cumin, Bruno Montevecchi e Carlo Morello. Da parte di Francesca Terranova ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.